Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Vi trasmettiamo in diretta da Trento, dove si sta chiudendo in queste ore, si sta chiudendo proprio in questi minuti, in realtà il Festival dell'Economia, arrivato alla sua decima edizione, che quest'anno affronta un tema che riguarda tutti noi, e questo tema è la mobilità sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire la possibilità, semplicemente, perché per farla molto semplice, per chi nasce figlio di un operaio, di poter ascendere a livelli alti di carriera. Questo significa il fatto che all'interno di una società ci possano essere movimenti verso l'alto e verso il basso, il cosiddetto ascensore sociale. Tanto ne abbiamo parlato, tanto si è detto che l'Italia difetta di questo ascensore sociale, ci sono degli esempi clamorosi, e però il problema si sta estendendo. Se considerate che qualche settimana fa c'era una copertina dell'Economist dedicata proprio agli Stati Uniti, che sono quella che noi consideriamo la terra delle opportunità, che raccontava come invece sempre più anche i figli dei ricchi continuino semplicemente ad essere ricchi e possano ascendere a posizioni sociali più elevate. Questo sarà uno dei temi, e ci sono tanti fronti da affrontare da questo lato. È stata presentata una ricerca proprio oggi qua al Festival dell'Economia che dimostra che avere un parente che è in politica, anche se si lavora nel privato, vale mediamente, questo dice la ricerca, 500 euro in più all'anno, per una questione di rapporti, per una questione, se volete, di inserimento in un determinato mondo e non solo. Ci occuperemo di questo e ci occuperemo delle notizie di oggi che arrivano dalla Grecia, un'infinita telenovela che ancora oggi ci riporta a questo confronto tra i creditori e il governo greco, proprio nel momento nel quale i creditori avevano deciso di mettere insieme una proposta, cioè di stilare delle proposte da portare al governo greco per dirgli questa è la nostra idea, decidete e ragionate su quello che noi vi chiediamo di fare. Proprio in quel momento è arrivata un'intervista del premier greco Alexis Tsipras, che dice alla TV greca, ebbene, noi stiamo per presentare una nostra proposta e fra breve ve la daremo. Come capirete, è anche un balletto di comunicazione contrastante, al quale stanno giocando tanto i creditori, e quindi l'Europa, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, quanto la stessa Grecia. Vedremo che cosa ne emergerà. Intanto oggi cerchiamo di fare un punto e cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questa proposta di Tsipras e cosa c'è dietro questa proposta dei creditori, che però non è ancora completa. Come sempre e come ogni giorno ci occuperemo di mercati. Oggi scambi, essendo una giornata di festa, piuttosto sottili a Milano, come si dice, quindi non molti, si registra un guadagno, più 0,7% sul FTSE MIB, più 0,66% sul FTSE All Share, in un quadro europeo complessivamente negativo, con Francoforte che cede lo 0,6%, Parigi in lieve calo dello 0,07%, ed è negativa l'America con il Dow Jones che cede lo 0,24%. Andiamo e iniziamo dalle notizie in breve. (349) 238 6666 è il numero per i vostri SMS, come sempre. Un ascoltatore già commenta: che palle sta Grecia. Diciamo così, un po' ha ragione. È vero anche che il grande tema che sta tenendo appesi i mercati, e non solamente i mercati, e quindi forse vale la pena di capire, insieme a quello che succede, a quali sono le proposte effettive sul campo, anche quale battaglia si stia giocando e su quali livelli di comunicazione, per capire proprio quanto stare dietro alla cronaca quotidiana delle dichiarazioni delle istituzioni internazionali e del governo greco e quanto invece ci sia di sostanziale. Comunque ci verremo nella seconda, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione dopo le 18. Il rialzo sia l'oro a 1193 dollari l'once, partiamo dalle materie prime come sempre, un più 0,34%, quanto il petrolio, il WTI, quello quotato a New York, a 60,6 dollari al barile, un rialzo dello 0,66%. E a proposito di materie prime, c'è Medvedev, il premier russo, che dice che il progetto del nuovo gasdotto turco-russo Turkish Stream è venuto fuori perché i partner europei hanno silurato il progetto del South Stream e ora naturalmente alcuni paesi se ne stanno pentendo. A proposito di tutto questo, apriamo una parentesi sul TAP, la cosiddetta Trans-Adriatic Pipeline, ossia questo gasdotto che passando dall'Albania dovrebbe approdare sulle coste pugliesi. È un progetto molto contestato in Puglia. Il 21 maggio scorso è arrivato il via libera, la firma dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi. I lavori dovranno iniziare entro il 16 maggio 2016 e l'operatività dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020, ma come si diceva è un progetto molto contestato in Puglia e in Puglia ci sono state giusto adesso le elezioni. Elezioni che hanno visto la vittoria di Michele Emiliano del Partito Democratico, che però sul TAP, sulla Trans-Adriatic Pipeline, ha qualche dubbio, soprattutto su dove deve arrivare. Emiliano che apre ad un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che invece il TAP non lo vuole per niente. Quindi, come vedete, classicamente quando si tratta di grandi opere, le questioni politiche si intrecciano a quelle di esigenze del paese. Oggi abbiamo sentito Michele Emiliano in effetto giorno e gli abbiamo fatto un po' di domande su questo, partendo proprio dalla questione del TAP e dicendogli, insomma, lei vuole l'alleanza con i 5 Stelle, ma i 5 Stelle, il TAP non lo vogliono. Ecco la sua risposta. Io non so come si facciano la doccia i militanti del Movimento 5 Stelle e come riscaldino l'acqua. In Italia si riscalda prevalentemente col gas metano e il metano viene utilizzato anche per altri utilizzi. Quindi evidentemente devono accettare l'idea che una nuova linea di approvvigionamento del gas alternativa a quello russo dal punto di vista strategico è importante. E quindi che un gasdotto ci debba essere non credo che sia possibile dubitarne. Quello che è sicuro però è che in questo momento l'approdo di San Foca non mi pare che abbia una giustificazione, cioè nessuno di noi, io stesso che ho vinto persino le elezioni, non ho ancora capito, perché nessuno lo ha spiegato, perché su 900 quasi chilometri di costa della Puglia deve arrivare questo gasdotto giusto sulla spiaggia, una delle spiagge più belle della Puglia. Se qualcuno fa la cortesia di spiegarlo ai pugliesi, può darsi che i pugliesi se ne facciano una ragione, come qualche volta diciamo. Se, altrimenti sembra un atto di prepotenza. Brevemente su questo, ha un'ipotesi di altro approdo da proporre a TAP? So con certezza che c'è un altro gasdotto identico già autorizzato in un'area diversa, quella di Otranto, e so anche che ci sono zone industriali purtroppo realizzate in passato sulla costa che sono già purtroppo compromesse e che quindi non avrebbero nessun particolare danno neanche d'immagine dalla presenza del gasdotto. Capisco che questo potrebbe ritardare la realizzazione dell'opera, provocare ulteriori costi di progettazione, ma mi chiedo, fare un'opera contro la volontà di un'intera regione, perché poi di questo si tratta, i pugliesi non se la ingoiano in questa maniera, è una cosa intelligente per un'azienda moderna che vuole convivere con una comunità? Quindi io, senza fare battaglie diciamo così né ideologiche né di principio, chiedo, spiegate perché proprio lì, perché se la cosa ha un senso 4 milioni e 80 mila pugliesi capiranno e diranno va bene San Foca. Se questa cosa non ha spiegazione è evidente che bisogna spostarlo, tutto qua. Oh, C'è da dire che in realtà l'azienda dice che la scelta della localizzazione del punto di approdo e del tracciato a terra è stata fatta tra diverse alternative per individuare la più idonea sotto il profilo ambientale, sociale e della sicurezza. Come avrete capito, anche su questo tema, come su tantissime grandi opere italiane, ci sarà battaglia. Ci sarebbe, sostiene Die Zeit, un giornale tedesco, ci sarebbe un documento segreto franco-tedesco nel quale Angela Merkel si dice a favore di una radicale riforma dell'Eurozona. Sarebbe pure ora. Vertici regolari, un rafforzamento del presidente dell'Eurogruppo che dovrebbe avere più risorse a disposizione. E a proposito dell'Europa, abbiamo la stima dell'inflazione su base annua che a maggio torna in terreno positivo, più 0,3, nonostante la contrazione dei prezzi dell'energia, un meno 5%, il dato è di Eurostat. E abbiamo i dati dalla Germania, disoccupati ancora in calo, a maggio sono scesi di 6.000 unità a 2,780 milioni. Secondo l'Agenzia Federale del Lavoro la quota dei disoccupati è comunque rimasta stabile al 6,4%. Come abbiamo spesso raccontato e lo rispieghiamo, a volte i dati tanto sulla crescita quanto sulla decrescita degli occupati sono disgiunti da quelli sulla percentuale di disoccupati, perché la percentuale di disoccupati tiene conto della gente che è in cerca di lavoro, e quindi più gente cerca lavoro più aumenta la disoccupazione. La Grecia, si diceva, qualche altro messaggio che dice non ne possiamo più. C'è la proposta di accordo inviata da Atene ai creditori, è indicato l'obiettivo di un surplus primario per il 2015 dello 0,8% e dell'1,5% per il 2016 e per l'IVA tre aliquote, al 6%, all'11% e al 23%. Sarebbe dunque questa la proposta che la Grecia avrebbe presentato ai suoi creditori, annunciata da Tsipras. A loro volta i creditori stanno preparando una nuova proposta per Atene e chissà dove si incroceranno queste due cose. I quali creditori hanno un consenso sul fatto di raggiungere un accordo, ma hanno deciso di non lanciare alcun ultimatum alla Grecia, che comunque, e riutilizziamo il termine che abbiamo utilizzato l'altro giorno, sarebbe a questo punto considerato come un penultimatum, perché alla Grecia saranno stati lanciati più ultimatum nell'ultimo anno che nella precedente crisi. Atene, che per parte sua dice che di ultimatum non ne accetterà. E fa sapere che ripagherà 300 milioni al Fondo Monetario Internazionale il 5 giugno solo se ci sarà l'accordo. Accordo che, dice il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, è ancora lontano. E qua siamo con un problema anche di comunicazione piuttosto netto, lo abbiamo raccontato anche l'altro giorno, perché anche gli stessi creditori della Grecia hanno ciascuno un interesse diverso e una visuale diversa. Chi ha la visuale europea, chi ha la visuale da Washington del Fondo Monetario Internazionale, fatto sta che non si mettono d'accordo nemmeno sulle dichiarazioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, comunque ci torneremo più avanti. A proposito d'Italia, abbiamo lo spread tra BTP e Bund che torna sotto quota a 140 punti base, a 138 punti e mezzo, e riaggancia per così dire la Spagna. E qua a Trento, al Festival dell'Economia, è intervenuto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, questa mattina in un incontro pubblico al Teatro Sociale. Ha toccato molti argomenti, la genesi della crisi e gli errori che ci sono stati, la deregolamentazione della finanza, la flessibilità nel lavoro e poi il tema della sovranità che tanto va di moda. Dice Visco: le banche centrali non hanno ceduto sovranità alla BCE, ma sono parte di una sovranità e di una responsabilità condivisa. Sentiamolo. Siamo parte di una sovranità condivisa e di una responsabilità condivisa. Quindi noi decidiamo anche la politica monetaria insieme agli altri governatori. Cioè, è chiaro che Draghi va e coglie il momento politico e ha questa importante funzione di relazione politica, ma poi il pensiero del governatore della Bundesbank, del presidente della Bundesbank, del governatore della Banca d'Italia, del governatore della Banca Francia e degli altri governatori è fondamentale per decidere cosa fare, quando farlo. Ma dopo che abbiamo preso questa decisione, va eseguita la decisione, non è banale. Adesso abbiamo questa politica non convenzionale, si chiama, in cui si crea moneta comprando titoli. Da chi li compriamo i titoli? E come li compriamo? E a che prezzi? E che tipo di titoli compriamo? Su quali scadenze? A 2 anni, a 3 anni, a 4 anni? E se quella scadenza lì resta in qualche modo una scadenza in cui non c'è più mercato, possiamo fare prestiti perché si ristabilisca quella offerta di titoli in quel particolare segmento? Ecco, tutte queste attività sono attività di banca centrale molto noiose, diciamo, in generale per il giornale, ma sicuramente molto importanti per chi la fa. Ancora Visco, sempre qua dal Festival dell'Economia. La crisi finanziaria globale, che è nata prima del 2007, è stata generata, dice, da errori in vari campi. Insomma, a sottolineare, attenzione a dare la colpa solo alla finanza e a come è impazzita la finanza. Ma le colpe sono anche, per esempio, di chi ha omesso il controllo, di chi non ha varato le leggi giuste. Sentiamo. La crisi finanziaria è stata una crisi globale generata da errori in vari campi, sicuramente da parte dei mercati, o meglio da parte degli intermediari finanziari che operano i mercati. Quando si dice i mercati non sono delle non hanno un volto entità preciso. Astratte, sono tante persone, molte di queste le conosciamo bene, molte di queste rappresentano interessi di investimento, di risparmio che vanno salvaguardati, altri svolgono un ruolo di investimento anche per ottenere dei vantaggi che non sono negati finché non danneggiano qualcun altro. Quindi errori dei mercati e degli intermediari ci sono stati, errori dei regolatori ci sono stati in varie parti del mondo, direi meno in Italia, nonostante quello che si vede sui giornali, i grandi titoli che ogni tanto si incontrano, di quanto non sia avvenuto altrove, però ci sono stati. Ecco, dall'altra parte c'è un'altra questione, dice Visco, ed è anche la vulgata, se volete, no? Quello che ha portato alla crisi è stata la deregolamentazione della finanza. E però, dice il governatore della Banca d'Italia, attenzione, perché la deregolamentazione non ha solamente aspetti negativi. Sentiamo. Noi abbiamo avuto un eccesso di crescita della finanza non regolata. Abbiamo avuto ovviamente questo eccesso di crescita che dipende da una deregolamentazione che è stata la risposta non solo nella finanza ma in tutte le aree dell'economia a dei fallimenti dello Stato negli anni, almeno così erano percepiti, negli anni 70, dopo la crisi petrolifera, quando ci fu una fortissima fermata inflazionistica, che però rimase a livello dei paesi occidentali, Italia molto chiaramente, e insieme ad essa una caduta dell'occupazione altrettanto forte, la stagflazione che ormai ci siamo dimenticati, ma all'epoca era molto molto violenta, quindi l'incapacità delle politiche di intervenire, il fallimento dello Stato, deregoliamo, i mercati fanno meglio. Sì, poi in realtà più che dire, come hanno titolato le agenzie, la deregolamentazione ha anche effetti positivi, dice Visco sostanzialmente, è stato parte di un processo economico storico e che insomma va preso per quello che è, insomma, è avvenuto in quel momento. Dice ancora Visco, con la flessibilità, sul lavoro, dice, di fronte alla sfida dei nuovi paesi emergenti e delle nuove tecnologie, non ci siamo difesi con l'innovazione e gli investimenti, ma con la ricerca di minori costi, in particolare del lavoro. E questa è una questione che vediamo e viviamo sulla nostra pelle quotidianamente. Di qui un utilizzo sbagliato della maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Quindi l'aumento dell'insicurezza, dei rischi, della precarietà, così il governatore della Banca d'Italia. E poi sui temi più prettamente bancari, che anche sono importanti, dice Visco, mi attendo in tempi brevi la riforma, dopo quella delle popolari, delle banche di credito cooperativo. Sentiamo. Ovviamente la riforma del credito delle banche popolari è importante perché viviamo in un mercato interno in cui si compete, in cui bisogna avere una capacità di guardare su un territorio molto più distante da quello locale, e queste banche già lo facevano, quelle interessate, erano banche nazionali, anche se avevano una base locale, ma avevano anche regole del gioco che non consentivano loro facilmente di andare sul mercato dei capitali. Per quel che riguarda le banche di credito cooperativo, anche lì c'è un problema ad andare sul mercato dei capitali, motivi statutari, cioè sono i soci che devono contribuire, quando i soci non contribuiscono e la banca sta in difficoltà, che si fa? Si cerca di aggregare queste banche con altre, oppure la cosa migliore sarebbe in realtà una riforma che consentisse di andare anch'esse sul mercato dei capitali, mantenendo quei valori fondamentali di cooperazione, quindi di interesse diretto sul territorio, che è un valore importante. Quindi in questo senso le proposte di avere dei gruppi o un gruppo che siano in grado, per la loro struttura societaria, di poter intervenire per compensare squilibri esistenti e contemporaneamente per mettere fondi in modo agevole anziché liquidare semplicemente gli istituti è importante. E c'è un altro punto al quale, per quanto conti, tengo particolarmente. 20 secondi di questa dichiarazione del governatore della Banca d'Italia, che secondo me dovremmo tenerci piantati in testa. Il tema è l'investimento in conoscenza. L'investimento in conoscenza è l'investimento che paga l'interesse più alto. Da un lato l'investimento pubblico ha un rendimento molto differito nel tempo. È molto differito nel tempo, e che vuol dire che bisogna fare uno sforzo per avere benefici quando non sei più al governo. È indubbio, questo è un difetto grave. Suggerisco questo, senza che mi metta a darvi io qualche dato, fatevi una bella ricerca su internet, andate su Google e troverete dei grafici con le differenze di reddito. Prendete gli americani, per esempio, che è un po' più facile da questo punto di vista, tra chi ha una licenza elementare, una licenza media, una laurea o un dottorato. E vedrete che cosa vuol dire Visco, che probabilmente ne parla un po' più ampiamente, intende anche gli investimenti dello Stato e delle aziende in conoscenza, perché anche quelli sono importanti, ma basta un grafico per darvi un'idea esatta di che cosa vuol dire. Anche di questo parleremo tra un attimo, e ci ha raggiunto nei nostri studi qua al Festival dell'Economia di Trento Antonio Schizzerotto, che è un professore, insegna qua l'economia di Trento, è un sociologo e si occupa essenzialmente, fondamentalmente il suo campo di ricerca sul quale si è concentrato di più negli anni è esattamente il tema che attraversa tutto questo festival, la mobilità sociale, ossia l'ascensore sociale, come lo chiamiamo, e la meritocrazia, il merito. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi parliamo con il professor Schizzerotto. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Eccoci di nuovo in diretta da Trento, di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri SMS. Immaginate, o provate ad immaginare, la società di fine 800, inizi 900, una società nella quale sostanzialmente ci si passava il mestiere, per così dire, dove non solo era una società ancora basata fortemente sull'aristocrazia, ma magari anche per esempio sui meriti militari, erano invalse addirittura delle pratiche come il passarsi il posto nell'esercito tra chi aveva i gradi più alti. Da quel momento in avanti e progressivamente inizia a funzionare quello che potremmo definire l'ascensore sociale, ossia la possibilità per chi era delle classi più basse, e questo progressivamente è stata una cosa che è andata avanti nella storia, di ascendere a posizioni più elevate. E a un certo punto però, piuttosto recentemente, questo ascensore sociale si è fermato, o quantomeno ha rallentato molto. Antonio Schizzerotto, come si diceva, docente all'Università di Trento, sociologo, professore, quanto si è fermato questo ascensore e perché? Bene, io per rispondere alla sua domanda devo fare una precisazione. Diciamo così che ci sono due meccanismi principali, se così possiamo chiamarli, della mobilità. E questi due meccanismi sono, da un lato, la consistenza dell'ereditarietà sociale, alla quale lei ha appena fatto riferimento, e dall'altro le dimensioni delle varie classi o strati sociali, chiamiamoli come vogliamo, che ovviamente determinano il numero di posti che sono disponibili nelle varie posizioni. Allora, quello che è successo nel nostro paese è che per tutto questo periodo, in realtà, quindi diciamo da quello che riusciamo a capire dai primissimi anni del Novecento fino, diciamo, ai soggetti nati negli anni Ottanta, che sono quelli che sono entrati adesso o da poco tempo, diciamo così, 85, nel mercato del lavoro, diciamo i 30-40enni di oggi. Ecco, se studiamo il primo di questi aspetti che ho detto, cioè il grado di ereditarietà sociale, e per convenzione lo poniamo pari a 100 all'inizio del secolo, oggi siamo arrivati a 60, cioè c'è stata una riduzione dell'ereditarietà sociale di circa il 40%. Cosa è successo nel nostro paese nello stesso tempo? Beh, è successo che a partire dalla stagnazione che è iniziata negli anni 90, successivamente aggravata dalla crisi 2008 ad oggi, diciamo, quello che è successo è che l'altro meccanismo di mobilità, cioè l'espansione delle posizioni sociali medie e superiori, ha non solo rallentato, non solo si è fermato, ma è tornato indietro. L'esito finale è che il tasso di mobilità sociale ascendente oggi è tornato ad essere quello che era 40 anni, 50 anni fa. Cioè, diciamo che oggi i nostri giovani 30-40enni, faccio per dire, giovani adulti, diciamo, 30-40enni, hanno probabilità di sperimentare mobilità sociale ascendente uguale più o meno a quella dei loro nonni. Insomma, quindi c'è stato un regresso drammatico sotto questo punto di vista. Allora, noi adesso arriveremo alle motivazioni. Nel frattempo, io non so se si riferisca proprio a questo l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, che ci dice, insomma, basta dire che sono errori, è una cosa voluta, insomma, tendo a rifuggire io dalle ipotesi di complotto. Però, insomma, per riassumere quello che ci sta spiegando il professore, quello che è successo è che si sono ridotti i posti disponibili, molto semplicemente. E questo perché? Beh, questo perché, come ho accennato prima, la ragione principale sta nel fatto che quello che si chiama tecnicamente, poi lo diciamo anche in italiano, l'occupational upgrading, lo spostamento verso l'alto della stratificazione sociale, da noi non ha più avuto luogo. Non ha avuto luogo perché la recessione economica, la stagnazione prima, perché quello che non dobbiamo dimenticare, noi siamo molto preoccupati, giustamente, della crisi di adesso. Il problema dell'Italia è che noi siamo in stagnazione dagli anni 90, questo è il problema. Allora cosa è successo? Si sono ridotti i posti di stampo impiegatizio, diciamo gli impiegati di concetto, gli impiegati direttivi, si sono ridotti i posti della dirigenza, si sono ridotti i posti nell'imprenditoria, perché vediamo, no, quello che è successo nel nostro apparato produttivo, nel sistema industriale, si sono ridotti anche i posti nelle libere professioni. Questo è, come dire, naturalmente sto parlando della sfera lavorativa, insomma, ecco. Questo è quello che è successo principalmente all'interno del nostro paese. Il declino economico ha comportato un declino, una riduzione, per meglio dire, delle dimensioni di quelle classi medie e superiori che, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra e fino agli anni 90, per circa mezzo secolo erano cresciuti ad una velocità notevole e degna di nota. Tanto è vero che dal punto di vista dei tassi di mobilità assoluta non è che l'Italia sia poi così diversa dalla Germania, dalla Francia, dagli stessi Stati Uniti. E per certi versi, dicevo prima, il grado di ereditarietà sociale, non dico che da noi sia più basso, dico che da noi è diminuito con una velocità più bassa, ad esempio, da quella fatta registrare dalla Germania, o da quella fatta una velocità più alta, chiedo scusa, volevo dire esattamente il contrario. Da noi è declinato con velocità più alta di quanto non sia successo in Germania, in Inghilterra, eccetera. La differenza, ripeto, da noi è che questo tasso relativamente in media, questo tasso assolutamente in media europea di mobilità sociale complessiva, la componente ascendente si è ridotta drammaticamente, mentre è aumentata drammaticamente la componente discendente. Quindi oggi quello che succede è che neppure i figli delle classi medie, medio-alte e per certi versi anche segmenti non marginali delle classi superiori non riescono più nemmeno a porre una rete di protezione al di sotto dei destini lavorativi dei loro figli, che molto spesso, ripeto, scendono nella scala di stratificazione sociale. Abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata idealmente ascoltando quello che ci diceva il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che parlava della conoscenza e dell'investimento in conoscenza. Ora qualcuno scherza e mi scrive su Twitter, dice l'importanza della conoscenza, tipo sono amico del cognato della moglie dell'assessore. Anche questa è una battuta che ci sta, se considerate, come vi diciamo in apertura, che oggi è stata presentata una ricerca proprio qua al Festival dell'Economia, realizzata da Stefano Gagliarducci e Marco Maracorda, secondo la quale mediamente vale 500 euro in più all'anno, con un incremento sulla retribuzione media pari al 3% circa, avere un un parente politico, anche se si lavora nel privato. Poi insomma, possiamo discutere anche su come è stata fatta questa ricerca, perché è stata fatta incrociando i dati del prime tre lettere del codice fiscale con la città di nascita, e quindi, come dire, anche la precisione non è massima, perché ci sono luoghi nei quali metà della gente si chiama con lo stesso cognome e quindi non è proprio immediato, però ci dà un segnale interessante. Vorrei parlare con lei subito dopo il traffico, perché qualcuno ce lo richiede dicendo che oggi c'è il delirio, e lo sappiamo benissimo, è il 2 giugno, il ritorno dal ponte. Subito dopo il traffico vorrei parlare con lei proprio di questo punto, cioè di che impatto ha l'investimento personale o familiare in conoscenza nella possibilità dell'ascesa sociale. Dopo il traffico. Focus Economia. Qualcuno ci scrive: le liberalizzazioni hanno tolto l'ereditarietà delle professioni, abbienti, notai, avvocati, eccetera, ma guardate là, l'ereditarietà è di fatto, cioè non è che se un avvocato, un mega avvocato, prende nel suo studio il figlio e lo fa socio, lo può fare serenamente, ecco. Notaio è un po' più complicato, c'è un concorso e bisogna passarlo. Però il supporto di un notaio in famiglia per passare il concorso aiuta. Senza contare la famosa vicenda dei figli dei farmacisti che potevano aprire una farmacia pur non essendo farmacisti a loro volta. Ma veniamo a quanto conta la conoscenza, professor Schizzerotto. Questo, io lo confesso, è un mio pallino. Ci sono anche degli studi che dimostrano che nei paesi nei quali si investe meno per acquistare casa e di più per far studiare i figli, cioè decido di non comprare casa, sto in affitto e quel capitale lo investo per far studiare mio figlio, gli regalo un avvenire molto migliore, no? Assolutamente d'accordo. Diciamo che gli investimenti in istruzione, in conoscenza, come insomma in quello che vogliamo, come vogliamo definirla, sono assolutamente cruciali. Quello che sappiamo è che, per fare una semplice osservazione, se noi consideriamo qual è l'effetto delle origini sociali sui destini occupazionali degli individui, quello che possiamo osservare è che le origini sociali contano sempre meno, sempre molto meno, quanto più elevato è il livello di istruzione. Diciamo che l'investimento in istruzione, in un certo senso, antagonizza eventuali svantaggi derivanti da origini sociali inferiori. Quindi questo è una cosa assolutamente assodata, ricerche in Italia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Quanto più alto il titolo di studio, tanto meno le origini sociali contano. Quindi l'investimento in istruzione è un importantissimo fattore di fluidificazione sociale. Quello che succede in Italia è che, per le ragioni che avevo detto prima, cioè la riduzione delle posizioni medie e superiori, i rendimenti assoluti in termini occupazionali dei titoli di studio stanno declinando. Ma stiamo attenti, perché l'istruzione è un bene posizionale. Cosa intendo dire? Che l'istruzione conta in funzione, l'istruzione di un individuo conta in funzione dell'istruzione dei suoi concorrenti. Per cui se noi facciamo il rapporto tra i rendimenti dei titoli di studio universitari, per rimanere all'ambito italiano, e quelli dei rendimenti occupazionali e quelli dei possessori di diploma di scuola secondaria superiore, questo rapporto è crescente e a favore appunto dei soggetti in possesso di titoli di studio universitari. Senza spingerci al dottorato. Quindi da questo punto di vista, nel tempo il differenziale, diciamo così, tra diplomi e lauree, per semplificare grossolanamente il discorso, è crescente. Quindi, nonostante quello che dicevo prima, cioè la riduzione dei rendimenti assoluti, il vantaggio competitivo sul mercato del lavoro offerto dai titoli di studio è crescente. La ringrazio, grazie al professor Antonio Schizzerotto, che è un sociologo, insegna all'Università di Trento e che appunto uno dei suoi temi di elezione è esattamente questo, la mobilità sociale, che è il tema di quest'anno del Festival dell'Economia che arriva al suo decimo appuntamento. Dunque grazie al professor Schizzerotto e noi cambiamo argomento, passiamo ai mercati. Chi ci scrive: è molto più rischioso investire nello studio dei figli piuttosto che acquistare casa e successivamente fare l'upgrade del know-how al lavoro. Sono scelte, ripeto, sono scelte di rischio. È chiaro che più comodo e più sicuro per certi aspetti avere il mattone, però sappiate che in realtà è altrettanto sicuro, almeno per i nostri figli, avere un'istruzione elevata come qualità, magari all'estero, perché no? Anche se ci sono ottime università anche in Italia. Andiamo ai mercati, va. Una giornata che vede Milano positiva, un più 0,6% sul FTSE MIB, un più 0,54% sul FTSE All Share. È negativa l'Europa, con Parigi che chiude con un meno 0,41%, Francoforte meno 0,94%. Giù anche l'America con il Dow Jones che cede lo 0,23%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A cosa dobbiamo il rialzo di Milano? Sicuramente le borse periferiche, non solo Milano ma anche Madrid e Lisbona, hanno sfruttato meglio di altre l'entusiasmo, questa, soprattutto intorno a pranzo, delle parole del premier greco Tsipras sul progetto, sul piano di riforme pronto e presentato ai creditori, quindi hanno un po' seguito la scia dell'euro, convinte che qualche passo avanti si stesse facendo nell'accordo Grecia creditori. Poi invece indicazioni, la smorzata che è arrivata dal presidente dell'Eurogruppo sul fatto che invece gli accordi sono ancora abbastanza lontani, hanno fatto rallentare le borse, mentre Francoforte e Parigi hanno vissuto una giornata in rosso già da questa mattina. Sì, devo dire, siamo sfibrati da questa vicenda greca e nonostante tutto questo torneremo a parlarne subito dopo la pausa del giornale radio, come già dicevo agli ascoltatori in apertura, anche per cercare di capire come stia funzionando questo gioco di comunicazione tra i greci e i creditori. Singoli titoli da segnalare, Andrea. Iniziamo da Telecom, che dici? Sì, sicuramente Telecom Italia, che sta vivendo un buon recupero, più 6% nell'ultimo mese, più 3% oggi. Chiaramente c'è una speculazione, un'attenzione su quello che è il nuovo assetto azionario dopo lo scioglimento della holding Telco che controllava circa un quarto del capitale, l'ingresso di Vivendi, c'è chi dice naturalmente che Vivendi possa rafforzarsi e quindi acquistare sul mercato. Quindi c'è una certa attenzione su questo titolo proprio per questo motivo. Ebbene, anche Saipem più 2,75%, ci sono motivi particolari? Saipem sta sfruttando il rinnovato interesse sul titolo, che deriva dal fatto che viene presentato in questi giorni a Parigi la versione riveduta del South Stream, il gasdotto russo che era stato sospeso in autunno, alla fine dell'anno scorso, e con il quale Saipem ha contratti importanti, e si sta lavorando da tempo a una versione corretta che passi per la Turchia. Saipem quindi potrebbe rivedere nuovi contratti importanti da questo progetto, e questo e il buon rialzo del petrolio, che oggi è andato anche sopra i 61 dollari al barile per quanto riguarda il contratto di New York, ha fatto sì che Saipem guadagnasse quasi il 3%. Abbiamo bene tutto il comparto bancario, Emilia Romagna più 2,33, Banco Popolare più 2,16, Ubibanca più 1,9, Unicredit più 1,9, Mediobanca più 0,8, Intesa San Paolo più 0,8 e poi abbiamo qualche altro titolo di cui parlare, in particolare Fiat Chrysler, perché oggi sono arrivati i dati dall'America, dal Brasile, insomma ci sono dei dati interessanti che hanno mosso il titolo, ma lo facciamo dopo il giornale radio. Debosciati d'Italia, unitevi! Sono Alessandro Milan e lo so che voi non ne potete più. Basta tasse, basta tasse, basta tasse. Lo so che avreste la ricetta giusta per i politici. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. E allora eccoci, a 24 mattino siamo i primi a commentare le notizie del giorno, leggiamo i giornali, discutiamo, se necessario ci arrabbiamo, ma non abbandoniamo mai il buon umore. Insomma, la colazione migliore si fa con noi. Il caffè volentieri a tutti quanti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9 su Radio 24. Che te pozzino via fuoco, ciao Mila. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia in diretta dal Festival dell'Economia di Trento alla sua 10ª edizione. Il titolo di quest'anno è la mobilità e tema di quest'anno è la mobilità sociale. Dopo l'intervista che abbiamo realizzato con il professor Schizzerotto poco fa, state continuando a mandarci dei messaggi. C'è chi ci dice, chi risponde ad altri ascoltatori che hanno espresso perplessità sul ragionamento che facevamo. Dicevamo, ci sono degli studi che testimoniano che in alcuni paesi si è preferito investire nell'educazione dei propri figli piuttosto che per esempio nell'acquisto di una casa, e l'impatto sulla vita dei propri figli, quindi su l'impatto economico di tutto questo, è sicuramente maggiore. Qualcuno ha espresso perplessità, altri ci scrivono, lo fa Max per esempio, e secondo me è un ragionamento molto corretto, dice: investire nell'istruzione non serve solamente ai figli ma a tutto il paese, perché un popolo istruito è più civile e più cosciente. E qua insomma il filo sottile, nemmeno troppo sottile, tra capitale umano e capitale sociale, che se non erro era un altro dei titoli del Festival dell'Economia. Nel frattempo ci ha raggiunto Innocenzo Cipolletta, che è presidente della facoltà, è presidente dell'Università di Trento, è in studio con noi. Buonasera Cipolletta e benvenuto. Buonasera. Torneremo a parlare con lui dei temi del festival e anche di Grecia, ma prima dovevamo chiudere il capitolo mercati e siamo ancora in linea con Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Andrea, eccoci. Dunque, eravamo rimasti su Fiat Chrysler. Sì, per Fiat Chrysler una giornata altalenante, questa mattina ha sfruttato in buona parte i dati sulle immatricolazioni italiane che erano state rese note ieri, erano state particolarmente positive, più 13,4% nel mese di maggio rispetto a un mercato cresciuto quasi dell'11%. Nel pomeriggio sono arrivati dati contrastanti, un buon dato per quanto riguarda gli Stati Uniti, più 4% nel mese scorso, il miglior mese di maggio da 2005, quindi da 10 anni per il gruppo, ma anche un'indicazione negativa per il Brasile, perché il mercato complessivamente è sceso quasi del 28%, è il quinto calo consecutivo. Fiat è il primo gruppo di venditori automobili, di costruttori in Brasile, e anche se non è noto il dato puntuale di Fiat, il mercato ne ha preso conto, ha preso nota e ha fatto soffrire il titolo. Ultima domanda che ho per te, Andrea, se ci sono singoli titoli particolari e ulteriori rispetto a quelli dei quali abbiamo già parlato da segnalare. Beh, certamente oggi questo recupero dell'euro nei confronti del dollaro, anche per dovuto ai dati americani non troppo brillanti, anzi negativi, che sono stati diffusi nel pomeriggio, ha un po' portato a vendere i titoli delle società più esposte sul biglietto verde. E segnatamente mi riferisco ad Autogrill e a Luxottica, che hanno registrato perdite di vicine quasi al 2%, meno 1,9% Autogrill, meno 1,7% Luxottica, quindi il fattore dollaro oggi un po' si è fatto sentire a Piazza Affari, sicuramente è stato uno dei temi del giorno. Grazie ad Andrea Fontana e come sempre ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore per le informazioni puntuali e le analisi. Passiamo alla sfibrante vicenda greca. anche con Innocenzo Cipolletta, che vi ho presentato un attimo fa. Intanto voglio collegarmi con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Ancora un gioco di comunicazione che forse non riusciamo a cogliere per intero, cioè non riusciamo a cogliere quanto ci sia di sostanziale dietro tutto questo. Ossia, i creditori della Grecia preparano una proposta per la Grecia, una proposta di riforme, e la Grecia, mentre loro la preparano, dice: no, abbiamo una nuova proposta nostra. Ci spieghi che cosa succede? Sì, esattamente, c'è stato come un intersecarsi nel cielo di Berlino, dove erano radunati tutti i creditori della Grecia, dal Fondo Monetario alla Banca Centrale Europea alla Commissione Europea, e con i due presidenti, il presidente francese e il cancelliere tedesco Angela Merkel, e avevano proposto appunto un piano che servisse a porre, come dire, una visione politica generale dei creditori. Quindi la famiglia dei creditori si metteva d'accordo, perché c'erano state divisioni anche interne, mi ricorderai, tra Fondo Monetario di Christine Lagarde e gli europei sulla questione del debito, della sostenibilità del debito. Insomma, tutti i creditori si sono messi d'accordo per fare una proposta ad Atene. Atene invece ha giocato di anticipo e ha mandato un piano nella stessa serata, in cui faceva delle controproposte, un piano che è diventato molto più ampio di quello che faceva di solito. Le 8 paginette iniziali sono diventate ben 47 pagine. E che cosa propongono? I creditori propongono un surplus di bilancio, quindi quel saldo al netto del pagamento degli interessi sul debito dell'1%, mentre i greci dicono 0,8%. Nel 2016 e anni successivi i creditori propongono un 3,5%, mentre i greci propongono un 1,5%. Naturalmente ci sono ancora delle differenze su come raggiungere questo surplus, che vuol dire in soldoni aumento delle tasse, si parla di un IVA, aumento dell'IVA, quindi delle indirette, l'eliminazione delle esenzioni per le isole, e una riduzione ancora delle spese attraverso dei tagli sui prepensionamenti e su alcuni fondi speciali che hanno ancora delle deroghe per andare in pensione prima dell'età, che è stata portata appunto a 65-67 anni per gli uomini. Come vedi, quindi c'è un quadro molto più articolato. Sì. Questo è un punto interessante. Vorrei subito coinvolgere Innocenzo Cipolletta, perché mi sembra, anche da quello che ci diceva Vittorio Darold, che forse, non vorrei esagerare perché di punti di svolta ne abbiamo parlato fin troppo spesso in questa vicenda greca, un punto di svolta c'è, ossia che finalmente, invece di presentare le famose 8 paginette delle quali Vittorio Darold ci parlava, nelle quali, lo ricordiamo perché molti dicono la Grecia ha presentato, nelle quali c'era compreso per esempio tra le misure contro l'evasione fiscale il fatto di dotare i turisti e le casalinghe di telecamerine per controllare chi non batte gli scontrini, all'interno di un piano presentato ai propri creditori, decide di presentare un piano che apparentemente è un po' più serio, Cipolletta, no? Sì, guardi, io ho fatto 15 anni il direttore generale della Confindustria e ho passato una parte della mia vita a fare le contrattazioni. Nelle contrattazioni la discussione non è soltanto, e direi anche non tanto, tra le parti, le controparti, ma la discussione principale si svolge fra ciascuno e i propri supporter. E quindi questi comunicati, queste mosse, tattiche, non servono tanto per spiazzare quello che ci sta di fronte, ma per convincere quello che ci sta dietro. Perché se noi arriviamo a un accordo, per me l'importante è che l'accordo sia approvato da tutti quelli che mi sostengono. Questo succedeva per noi nel sindacato e nelle imprese, perché poi dovevamo farci vidimare i nostri accordi. Grecia e creditori fanno grossomodo lo stesso, c'è un governo il quale deve poter dire ai propri cittadini: guardate che noi abbiamo ottenuto il massimo che riuscivamo a ottenere. È evidente che se io mi trovo un documento della controparte e dico che bello questo documento, i miei mi si rivoltano contro e dicono: hai perso completamente. Quindi io che cosa devo fare? Ne devo presentare un altro per far vedere ai miei, giustamente, che io sono attivo e porto la controparte verso i miei. Questo è un gioco diciamo pericoloso, perché poi alla fine si può rompere nell'ambito di questo gioco, perché anche i creditori hanno dietro le spalle una serie di popolazioni le quali dicono: noi non vogliamo pagare i debiti degli altri. E quindi i rischi delle tensioni, come i rischi della guerra, purtroppo avvengono proprio su questi aspetti qua. Noi avevamo tutti sperato che la creazione di istituti internazionali come il Fondo Monetario e l'Unione Europea avrebbe creato dei soggetti, degli arbitri, i quali fossero in grado di evitare questi confronti. Purtroppo dobbiamo constatare che questi soggetti si sono messi pure loro a giocare a contratto, e questo è il grosso errore, credo, dell'Unione Europea e del Fondo Monetario, che stanno sbagliando parecchio in questo. E che tra l'altro stanno giocando in questo modo anche tra loro, come ci diceva Vittorio D'Arolda, cioè non solamente con i greci, ma anche tra loro. Assolutamente. Quindi il gioco finisce per o non avere una soluzione, o avere una soluzione casuale che poi alla fine qualcheduno ci rinuncia, mentre bisogna trovare un gioco cooperativo. E il gioco cooperativo, secondo me, è quello che dice: alla fine questa soluzione consente ai greci di crescere, di avere un più reddito, più occupazione, per cui il loro debito diventa automaticamente più basso perché la Grecia è cresciuta. Senza questo, l'idea di avere degli avanzi primari al 2, al 3, all'1, al 5 è un gioco aritmetico che non porta da nessuna parte. Vorrei capire da Vittorio D'Arolda, ma lo facciamo dopo il traffico, che come si diceva oggi è particolarmente importante, c'è un sacco di gente sulle strade. Vorrei capire da Vittorio D'Arolda, secondo lui, fino a quando si può tirare questa corda e fino a quanto. A tra poco. Focus Economia. Sì, poi tra l'altro qualcuno fa già notare che in questo vertice a Berlino Merkel, Hollande, Juncker, Draghi, Lagarde, ma non c'è Atene. Un vertice sul debito greco, sarà pure un vertice tra creditori. Qualcun altro più cattivo fa notare che non c'è nemmeno l'Italia. Vittorio D'Arolda, fino a quando si può attirare questa corda della trattativa, delle comunicazioni contrapposte, di questo, chiamiamolo anche, gioco delle parti? Sì, guarda, la prima data è il 5 giugno, quando scade una rata di 300 milioni che Atene deve restituire al Fondo Monetario Internazionale. Nel mese di giugno ci sono 4 rate che impegneranno Atene, che deve restituire complessivamente 1,5 miliardi. Ma potendo anche superare questo scoglio, ci sono tra luglio ed agosto altri 6 miliardi che Atene deve restituire alla Banca Centrale Europea, e lì la questione naturalmente sarebbe molto più complessa. Tra le proposte che i creditori hanno fatto appunto nella serata di ieri a Berlino, c'è anche la possibilità di usare una decina di miliardi che erano destinati alla ricapitalizzazione delle banche greche, che naturalmente sono state dissestate dalla situazione, soprattutto quando si fece il famoso ristrutturazione del debito in mano ai privati, e dovrebbero appunto essere utilizzati per il pagamento del fondo. Quindi sarebbero fondi che erano stati destinati alla ricapitalizzazione delle banche greche, che verrebbero utilizzati in maniera surrettizia, appunto, come prestiti convenzionali, normali. Per fare questo però c'è un problema, che ci vuole l'assenso dei 19 membri dell'Eurozona, quindi l'assenso di tutti i 19 membri, che però alcuni di loro, soprattutto Germania e Olanda, per qualsiasi modifica di questi crediti devono passare, ahimè, in Parlamento, con alcuni problemi nelle maggioranze appunto della Merkel e di Dijsselbloem, che appunto è anche olandese, quindi dovrebbe far passare questa modifica il presidente dell'Eurogruppo ai parlamenti, che naturalmente potrebbero riservare delle sorprese negative. Questo è un difficile gioco di equilibri fra opinioni pubbliche europee e opinioni pubbliche greche, che le une sono stanche dell'austerity, le altre appunto di una situazione continua di incertezza e di debiti. Sì. Allora, grazie intanto a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Io vi risparmio l'ennesima dichiarazione attendista del commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici, che dice ci sono progressi nel negoziato ma serve più sforzo delle parti che non sono ancora vicine all'intesa, perché la fotocopia esatta di qualsiasi dichiarazione potete riascoltare e rileggere negli ultimi sei mesi. E qua ancora una volta Cipolletta mi sembra che si dimostri l'inconsistenza delle istituzioni europee e l'incapacità di gestire un problema che tutto sommato è effettivamente un problema limitato. Sì, è un problema molto limitato, perché prima si parlava di restituzione da parte della Grecia. Se la Grecia dovesse effettivamente restituire tutti quei soldi sarebbe totalmente impossibile. E quindi quello che si sta discutendo, e che forse la gente non percepisce bene, è che noi presteremo nuovi soldi alla Grecia affinché ce li restituisca a noi stessi. Per dargli questi soldi noi ogni volta gli chiediamo di fare qualche cosa in più, e questo è uno stillicidio alla quale non si riesce a trovare niente. Quindi dal punto di vista sostanziale non ci saranno soldi che entrano e che escono, ma ci sarà semplicemente ogni settimana, ogni 15 giorni un vertice per dire: ah, noi adesso vi dobbiamo dare questi soldi affinché voi ci restituiate questi soldi. Bene, per fare questo aumentate l'IVA, abbassate questo. E veramente io credo che questa è l'antitesi di quella che possa essere un'Europa unita. Mi domando perché abbiamo fatto l'euro per arrivare qui. Bastava a questo punto fare un accordo sui cambi stabili fra i vari paesi, ogni paese si gestiva la sua situazione per conto suo e se non riusciva a gestirla svalutava come era un tempo. Aver fatto una moneta unica significa che bisogna mettere in comune i problemi, questo i paesi del nord che non lo vogliono ammettere lo devono capire, se no devono dire basta, l'euro è finito, torniamo indietro e facciamo un banale accordo di cambi. La Grecia tira ad uscire dall'euro secondo lei? No, non credo che aspiri a uscire dall'euro, perché sarebbe per loro un vero disastro, sia dal punto di vista tecnico nel breve termine, perché avrebbero delle fughe di capitali. Pensate che succede, i greci potrebbero mettersi a nascondere i biglietti di euro, perché con la nuova moneta il ritorno di una dracma significherebbe che la dracma è oltremodo sottovalutata, per cui se io mi conservo un biglietto di 100 euro sotto il materasso, questi 100 euro mi diventano un piccolo tesoro, e quindi a questo punto l'economia si sregola completamente, non ci sarebbero più pagamenti per un certo periodo. Non solo, ma riteniamo un'altra cosa: la Grecia, se anche svalutasse, non è un paese che ha una capacità produttiva così articolata e così forte da poter dire con la svalutazione io riacquisto competitività, esporto e ho risolto i miei problemi, come al limite potrebbe fare l'Italia, sì, la Spagna in qualche maniera. La Grecia ha trasporti, sì, marittimi e turismo, per carità, può anche aumentare moltissimo il suo turismo, però questo ha un limite. Quando abbiamo fatto entrare la Grecia nell'euro, noi sapevamo, perché qualcuno che dice che non lo sapeva, allora o è un cretino o è in malafede. Sì. Noi sapevamo che portavamo dentro un paese che non aveva capacità competitiva. Sì. Lo abbiamo portato dentro perché ci serve. Sì. Perché i paesi, l'Europa insieme, è un sistema articolato di paesi con capacità diverse, e la Grecia fa parte della nostra storia. Se vogliamo essere severi, ad esempio, prendiamo l'Italia del Sud. Ma se l'Italia del Sud, che ha un reddito pro capite come quello della Grecia, ha un disavanzo sicuramente pubblico, sì, gigantesco, ha un disavanzo nei conti con l'estero altrettanto, sì, pubblico, e gli diremmo: bene, tu per stare in Italia devi aumentare le tasse, diminuire l'occupazione e fare chissà che cosa, beh, io credo che abbasseremo, sì, il Sud e non otterremo niente. Loro fanno parte dell'Italia, la Grecia fa parte dell'Europa. La voglio portare in chiusura sul Festival dell'Economia. Insomma, mi sembra l'edizione sia andata molto bene, sì, decennale e anche tema molto azzeccato. Ricordavo poco fa una copertina di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, dell'Economist, che segnalava come il problema della mobilità sociale inizia a riguardare non solamente il nostro paese, e lo sappiamo benissimo, ma inizia a riguardare anche gli Stati Uniti. L'ereditarietà, no, di una serie non solo di fortune, ma anche di fortune politiche, lo abbiamo visto in questi anni. Sì, il festival è andato molto bene, il tema era centrato, è un tema sentito. E io dico anche una cosa, che molta gente pensa che la mobilità sociale, che la gente sia favorevole. Non è vero, la gente non è favorevole alla mobilità sociale. Mobilità sociale significa per alcuni poter crescere, ma per altri non dico diminuire, ma perdere una posizione relativa. Guardiamo quello che sta avvenendo con l'immigrazione. Noi sappiamo da secoli che i processi di immigrazione sono i grossi processi di crescita sociale, no? L'America è cresciuta per l'immigrazione da parte dell'Europa e di altri paesi, e così è avvenuto anche per gli italiani che sono partiti. Ecco, noi ci opponiamo all'immigrazione, che invece sarebbe un processo di crescita, di mobilità sociale gigantesco, che peraltro secondo me aiuterebbe anche paesi come noi. Ma poi ci sono tanti altri piccoli esempi. Nessuno di noi vuole modificare i sistemi che tolgono i propri privilegi. Quindi la mobilità sociale è sicuramente qualcosa che noi guardiamo come molto bella per il passato, perché noi ne abbiamo beneficiato, ma molto brutta per il futuro. E noi dobbiamo constatare che i nostri paesi stanno diventando un grumo di interessi che stanno bloccando la mobilità sociale. Non sarà facile, ma bisogna rimetterla in moto. Grazie ad Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Università di Trento. Viene da dir preside perché è un'istituzione di formazione, quindi viene da dir preside, però presidente dell'Università di Trento e membro del comitato editoriale del Festival dell'Economia. Speriamo ci si sente l'anno prossimo e ci si vede l'anno prossimo. Grazie Cipolletta. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Filippo Aureggi in regia qua a Trento, Valeria Bernardi forse a Milano, Luca Buratto anche per la parte tecnica, Barbara Bianchi in assistenza in redazione, così come Laura Faggin. Noi ci si risente domani alle 13 con Effetto Giorno, in diretta regolarmente da Milano. Radio 24, la passione si sente.